Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sarebbe bello andare in Russia a giocarci il mondiale, io l'ho detto in tempi non sospetti. Se noi andremo in Russia, perché ho imparato che le cose con le parole non si va da nessuna parte, si va attraverso il lavoro, attraverso il campo. Se noi, l'ho detto in tempi non sospetti, sono assolutamente certo che questo è un gruppo che sta nascendo ed è un gruppo che, se andrà in Russia, sarà la sorpresa dei mondiali. In questo momento c'è bisogno di tutti quanti, i giovani che si facciano trovare pronti e noi vecchi che aiutiamo i più giovani a crescere dando loro dei consigli. Questo è un mix perfetto, come dicevo prima, perché ha portato entusiasmo e spensieratezza insieme a tanta esperienza che abbiamo portato, che abbiamo noi vecchi. Sono felicissimo dell'esordio dal primo minuto, però c'è ancora Gigi che ci sta facendo molto bene, lo ringrazio tanto per tutti i consigli che mi dà in allenamento, i complimenti che mi ha fatto prima, quindi sono orgoglioso di vestire questa maglia e ringrazio lui per il supporto che mi dà. Nell'ordine Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzani in redazione, quelle che avete sentito, le voci di Ventura, con il quale per inciso sono d'accordo: se questa squadra va ai mondiali e deve andare ai mondiali, non voglio pensare nemmeno pensare a qualcosa di diverso, potrebbe essere una delle sorprese. Abbiamo sentito Bonucci, abbiamo sentito il Deb Donnarumma, Deb insieme a molti altri. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, come va? Molto bene, tu? Sei già proiettato verso Napoli-Juventus? Ma sono proiettato verso, più che altro verso l'estate, cioè il mio pensiero prevalente in queste ore è il gommone. Ecco. È il gommone? Cioè, la primavera l'abbiamo già scavallata in una settimana. Sì, oggi sono già un ricordo. Ho fatto un evento con Buffon che è stato anche molto piacevole, ma soprattutto c'è un sole che è una roba meravigliosa, una Torino proprio in fiore. Quindi se Torino è così, figuriamoci il mare, una cosa meravigliosa. Dire anche le Alpi molto belle, viste. Vabbè, quindi no, sono proiettato verso Napoli-Juve, certo. Sei proiettato verso Napoli? No, te lo dico perché so che hai incontrato appunto Buffon, anche la Juve è proiettata verso Napoli-Juve con notizie pessime invece che arrivano dal fronte nazionali, perché Piazza si è rotto tutto. Rottura del crociato, ci sono anche altre due lesioni, insomma, campionato ovviamente finito per il talentino croato e altro tributo pagato. Insomma, all'altare delle nazionali, a proposito della nostra amichevole classica, quella di ieri sera contro l'Olanda, classica nel senso che non è stata una bella partita, non è stata una partita indimenticabile, se non per i debuttanti, tanti, quelli che abbiamo visto. Donnarumma l'abbiamo già sentito, adesso sentiamo Petagna. Ho pensato a tutti i sacrifici che ho fatto per essere qui, quindi ho detto non vedo l'ora di entrare, perché ho fatto tanto per arrivare qui. Ringrazio il mister per avermi dato questa possibilità, sono davvero contento. Beh, già che ci siamo, anche Gagliardini va. Dispiace per Daniele, infatti l'ho visto anche con le stampelle, quindi non so cosa sia successo. Però beh, è inutile negare, sono felicissimo appunto di aver esordito con questa maglia, sono davvero contento, mi inorgogliosisce. Però adesso è un punto di partenza, spero comunque di andare avanti e di fare altre presenze. Sì, inorgoglisce meglio, ma comunque questo era Gagliardini, è entrato al posto di De Rossi, infortunato, non credo in maniera grave. Ma ha lasciato qualcos'altro la partita di ieri sera contro un'Olanda che in questo momento è abbastanza allo sbando, peggio di un'Argentina di cui poi parleremo dopo il GR delle 15 con Paolo Condò. Pier. Ma guarda, l'Olanda è allo sbando, però vincere in Olanda è sempre bello, cioè è sempre una nazionale tradizionale. Ma quando tu giochi una partita, è un po' come il discorso di Spagna-Francia, quando giochi partite fra nazionali di questo livello qui, c'è sempre una componente di adrenalina, no? di importanza, è nel nome stesso della partita. Quindi io sono molto contento. ti dico la verità, ho visto una squadra comunque piena di energia, piena di entusiasmo, con delle qualità. È un po' come, è un po' come l'immagine che ho adesso davanti della Gran Madre, che è un luogo di Torino, per chi non lo sapesse, è la primavera che sta esplodendo. Ecco, noi in questo momento siamo la primavera, il calcio italiano vive una fase di primavera. Sì, poi sì, se l'estate sarà un'estate piena da 40 gradi di bagordi, oppure se sarà un'estate un po' più pallida, questo non lo sappiamo. Però abbiamo finalmente una generazione, secondo me, di giocatori in tutti i ruoli, in tutti i ruoli, di grande speranza e di grande prospettiva. Di grande speranza e di grande prospettiva, è già di grande spessore, anche se l'esperienza ovviamente non si compra, ed è questo che al momento ci manca. Però abbiamo anche la catena di raccordo degli anziani. A proposito di anziani, come detto, hai intervistato Buffon, no, questa mattina, Pierluigi, per una questione di capelli. Buffon Buffon che è stato sentito, ha già proiettato anche lui su Napoli-Juventus, chiede qualcosa di, secondo me, praticamente impossibile. Mi associo a ciò che ha detto Sarri e gli fa onore. Poi però c'è una partita da giocare, c'è un dopo da partita da gestire, e mi auguro che soprattutto quello lo si faccia nel miglior modo possibile, nel modo più consono, perché è uno spot troppo importante, Napoli-Juve, per perderci in fatti troppo miseri e troppo piccoli, che non fanno il bene di nessuno e che non fanno il bene soprattutto della società italiana. Conviene dar retta a Buffon, Pierluigi? Sì, ma assolutamente. Guarda, io penso, perché sono ottimista, perché lo penso, che vincerà l'ironia, che fra l'altro è una dote che Napoli, per la quale Napoli è famosa nel mondo. Vincerà l'ironia, vincerà lo sfottò, vincerà la rivalità sana. Non posso immaginare scenari diversi. Sarebbe la fine di tutto, no? Quindi certo. Non scherziamo nemmeno. No, ma ha chiesto un'accoglienza nemmeno troppo dura per Higuain. Questo, vabbè, dipende dal pubblico napoletano. No, se fischia arrivare. L'ironia è la chiave, è sempre, guarda, la chiave di tutto, anche per telefono, noi che facciamo questo programma. Telefono con una radio di Napoli, dove intervengo spesso, un'ora fa, e i veri tradimenti per me sono quelli a parametro zero. Nel calcio di oggi, un tradimento che comunque ti porta in casa 90 milioni, quantomeno dal punto di vista delle casse, non è così tradimento. Poi sì, è ovvio che dal punto di vista dei tifosi, lasciare la seconda in classifica per andare nella prima, con queste due squadre che sono rivali, indubbiamente piacere non faccia. Quindi, ma io non pretendo, non penso che sarebbe assurdo chiedere chissà quale clemenza dal punto di vista dei cori o degli spottò. Sì, gli spottò è giusto che ci siano, perché fa parte della contrapposizione leale e virile del calcio, però deve essere quella roba lì. Ma diciamo che confine, comunque sono l'altra faccia dell'amore grande che Napoli ha provato. Ma assolutamente, per però insomma, voglio dire, cioè, il confine fra rivalità, spottò da una parte e qualcos'altro è un confine che penso che qualsiasi persona intelligente abbia chiarissimo in testa. Questo è evidente. Quindi di che stiamo parlando? Poi è ovvio che la rivalità c'è, non potrebbe essere altrimenti. Però ripeto, è stato un affare alla fine sicuramente tecnico per la Juve. Secondo me, dal punto di vista economico, non è stato così drammatico per il Napoli. Il Napoli comunque ha irrobustito tantissimo la rosa con i soldi che sono arrivati dalla cessione di Higuain. L'ideale per il Napoli sarebbe stato venderlo all'Arsenal, venderlo all'estero, questo sicuramente. Ma da un punto di vista tecnico, insomma, ripeto, i parametri zero, ecco, se tu hai un grande giocatore possono essere tradimento, zero, possono essere quello, tradimento. Quello è abbastanza un tradimento. Qui c'era addirittura l'etichetta del prezzo. Certo. Se uno mette l'etichetta del prezzo, poi non è che si può arrabbiare se quell'oggetto lì viene comprato. Sicuramente De Laurentiis non si aspettava una proposta della Juve quando ha messo la clausola. La proposta tutti quelli che mettono. Sì, no, la mettono per l'estero. Certo. In primis Belotti. Ha fatto scuola. 800240024 per dirci innanzitutto se anche a voi ispira fiducia questa nazionale, per magari sbirciare dal buco della serratura Napoli-Juventus e la ripresa del campionato che finalmente, lasciatemelo dire, verrà. E poi per chiudere questo primo blocco, prima del traffico, c'è un Milan che può sorridere, no? Abbiamo sentito Donnarumma ieri debuttante, tra l'altro ha giocato anche molto bene, però prima hai citato Francia-Spagna e anche lì c'è un altro milanista, De Lofeu, che ha timbrato il cartellino, gran bel giocatore, eh? Sì, De Lofeu, sì. Beh, De Lofeu... No, ma voglio dire, il Milan, che pure in un momento di difficile, di closing, mega closing, in corsa per l'Europa League, eccetera. Insomma, le cose non vanno malissimo nemmeno per i giocatori milanisti nelle varie nazionali, dicevo. Ma guarda, è sempre perché c'è questo maledetto problema del tempo. Il tempo nel calcio si consuma a una velocità supersonica e l'umore dei tifosi ovviamente... è quello che è, perché il Milan, io l'ho detto mille volte, lo penso sempre, non può che avere scenari gloriosi davanti a sé. Il Milan è uno dei brand più forti, più appetibili, più importanti del calcio mondiale, e quindi in un mercato che si globalizza, in un mercato che è veramente un mercato economico basato su quanto sei popolare, quanto sei famoso nei cinque continenti, il Milan non può essere in crisi nel lungo periodo. Nel breve periodo ovviamente sì, aspettiamo di vedere il closing eccetera. Dal punto di vista tecnico, tornando di più alla tua domanda, ci sono dei segnali incoraggianti. De Lofeu è l'ultimo di questi segnali incoraggianti, è un giocatore che sembrava si fosse perso e che invece Montella sta facendo riferire anche lui, come la primavera, adesso sto sull'altro lato del ponte. È sempre lo stesso concetto, anche questa è la primavera, perché De Lofeu è veramente un giocatore interessante. Ma guarda, io ti dico, quello che mi ha colpito, due cose mi hanno colpito molto: velocità e stupidezza. Sì. La personalità che lui ha dimostrato tante volte in tante partite, ce l'ho in mente allo Juventus Stadium, come ha cominciato la partita, insomma, giocatore vero, abituato a non aver paura, abituato a giocare contro chiunque con... No, certo, io in mente invece quelle due robe lì. L'immagine del gol segnato alla Fiorentina, che è stata una meraviglia. Comunque, esatto, 800-24, sì. 0024, numero verde, ci sentiamo dopo il traffico. Tutti convocati. Io sono, come ho già detto prima, sono orgoglioso di vestire questa maglia, lavoro duramente settimana dopo settimana per migliorare, perché non è mai finito di imparare, quindi ascolto tutti i consigli che mi danno i più grandi e vado avanti come sto facendo. Beh, appena cominciato ad imparare, questo era sempre Donnarumma, però su una grande base, sulla base di un grande talento, di un fisico da Superman, prodotto del sacco di Filippo Galli. Prodotto da nessun sacco, prodotto da madre natura, da papà e mamma. Dal talento che questo ragazzo ha in sé, io credo che poi compito nostro sia quello di metterlo nelle condizioni di far uscire questo talento, insomma, ecco, io credo che questo sia un po' il compito di un settore giovanile e in generale degli allenatori, no? Sì, però Filippo è modesto, sì. Filippo è modesto, perché è verissimo quello che dice, è ovvio che è impossibile costruire grandi giocatori se non hai sotto le mani quel talento lì, però è anche vero che ci sono settori giovanili e allenatori che hanno la cultura della costruzione, per cui si gioca un po' meno per il risultato, che per carità è sempre importante, un po' meno per la tattica e un po' più per la crescita in prospettiva dei giovani, e da quello che mi risulta, insomma, il signore che abbiamo al telefono è di questi, cioè è proprio un altro lavoro. Poi è ovvio che vincere le partite, vincere i campionati, vincere il Viareggio, Sassuolo Empoli, per carità, bellissimo, è importante perché è un grande riconoscimento di tutto questo, ma credo che chi lavora nel settore giovanile, più che pensare a vincere nell'immediato, debba pensare a costruire dei talenti in prospettiva. Sì, grazie, no, ti ringrazio, sicuramente è questo l'obiettivo di noi, di tutti coloro che lavorano in un settore giovanile, in particolare al Milan, credo che ormai abbiamo dimostrato da qualche anno di puntare assolutamente sulla formazione dei nostri ragazzi. È chiaro, quando ti trovi poi davanti un talento come quello di Gianluigi, con uno spessore anche dal punto di vista morale così grande, questa sua capacità di essere sempre sereno anche di fronte agli errori, peraltro pochissimi, credo che insomma ecco, sia più facile da questo punto di vista, e credo che gran parte del merito sia del ragazzo, sia della famiglia che è sempre stata vicina. Io dico sempre che poi la famiglia, quando è sempre presente ma non è mai invadente, sia davvero un punto di forza per tutti i ragazzi. Assolutamente, Filippo. Adesso la domanda un po' vanalotta, anche un po' stupidota, che viene fatta è il nuovo Buffon, quanto gli manca per arrivare a Buffon, qual è la differenza tra Donnarumma e Buffon? L'hanno chiesto l'altro giorno a, non so se a Bonucci o a chi altro, ha detto vabbè, Buffon è a fine carriera, ha una montagna di esperienza e una montagna di carisma. Sì, Buffon quindi è un totem del calcio italiano, non solo come portiere. Potrebbe essere suo papà. Gianluigi ha tutto, sì. Gianluigi Donnarumma ha tutto per seguire le orme di Buffon, e credo che lo stia facendo passo dopo passo, con grande, ripeto, serenità, con grande consapevolezza e anche con prestazioni che sono poi quello che danno energia, no? Per avere sempre motivazioni nuove e con consapevolezza a crescere. Quindi credo che questi siano gli elementi fondamentali per un ragazzo, sì, perché continui a lavorare così come sta facendo, con la serietà, con l'impegno, e peraltro con una squadra di allenatori e di portieri come quella guidata da Alfredo Magni, importante insomma. Sì, la scuola è importante. Sei d'accordo con me, Pardo, nel trovare questa nazionale di giovani decisamente intrigante, anche se l'esperienza, così come la famosa amalgama di Massimino, non si compra al supermercato e non ha un prezzo preciso? Beh sì, è stata insomma in quest'ultima partita c'è stata la possibilità di Ventura di fare degli esperimenti, credo che qualcuno sia riuscito, qualcuno meno, magari nella posizione di trequartista, però credo che sia giusto usare queste partite che non hanno importanza, almeno non l'hanno come le altre dal punto di vista del risultato, per provare qualche ragazzo innanzitutto. Io sono contentissimo perché ho visto, al di là di Gianluigi, Simone Verdi che ha esordito, Andrea Petagna che era con noi fino a qualche anno fa, insomma, ecco, tutti i ragazzi che sicuramente si sono costruiti un presente più di un futuro importante grazie al loro impegno, alla loro dedizione, ripeto, sempre un talento che comunque è lì e che coloro che con cui hanno lavorato gli ha contribuito a far sì che questi ragazzi crescessero nella giusta direzione. Certo, Pier, non c'è tantissimo tempo però, esperimenti va bene, c'è qualche amichevole come quella di ieri sera, però si tratta di costruire la squadra che, sì, innanzitutto comunque, il 2... Posso fare 20 secondi polemici, perché mi fai pensare comunque, il fatto che ci siano Spagna e Italia nello stesso girone è una roba, adesso con tutto l'affetto e tutto il rispetto, ci sono dei gironi ridicoli, cioè ci si dovrebbe avere pure rispetto. No, ma è la verità, dai, questo adesso ce lo diciamo fra di noi, amen. No, ma io sono quasi a questo punto di vista. Cioè, è un peccato. È un peccato, ma certo, è un peccato, è un'assurdità più che un peccato, perché ci sono altri gironi veramente incommentabili da questo punto di vista. Sì, sì, sì. E fra l'altro c'è anche da dire che non è che Spagna, Italia, cioè l'Italia comunque, sicuramente dal punto di vista dei mondiali, che sappiamo che è quella che conta, ha faticato. Però è anche vero che poi c'è per esempio la storia degli europei, che è una storia invece sicuramente più virtuosa, cioè dovrebbe esserci una valutazione più complessiva. Io non voglio dire che dovrebbe essere legata solo alla storia delle nazionali, altrimenti Spagna, Italia, Germania, Inghilterra devono andare al mondiale sempre. E infatti ma potrebbe essere anche un'idea, si può essere anche esatto, integralisti come esatto. Cruciani, che dice, vabbè, ma che senso ha? Queste squadre vanno ai mondiali per principio e poi le qualificazioni è roba per altri. Questo sì, è l'estremismo crucianiano. Altri sport. Così, però insomma, vabbè, detto questo, è chiaro che avremo potrebbe una essere un'idea che però difficile. Mi sembra che vada contro un po' le idee della FIFA. Sì, sembra anche a me. No? Però non è male come idea. Non è male, ma non era male neanche l'idea che è tramontata, di cui poi parleremo, della Superlega, del Supercampionato europeo. A me è sempre piaciuta e quello secondo me è il futuro. Piaccia o no a loro signori che adesso hanno deciso che non si farà, quello è il futuro. O no, parla. Sì, guarda, ti dico la verità, io sono uno che non è che odia le novità, quindi sono uno molto aperto non sono lì a mettere in trincea, a difendere il passato. Ti dico che secondo me la Superlega già c'è, perché la Champions League, soprattutto poi con la nuova formula, con quattro italiane, con quattro squadre dei grandi paesi, è una competizione con quelle caratteristiche. Dal punto di vista della storia è ovvio che l'Italia, Inghilterra, Spagna dovrebbero portarne sei di squadre e si dovrebbe giocare un'unica competizione, però insomma secondo me siamo già abbastanza vicini a quella roba lì. Noi non abbiamo la cultura dell'NBA, la cultura degli sport americani, dove ci sono le franchigie e dove si decide che 27, 29, 32 squadre giocano a prescindere e non ci sono le retrocessioni. Abbiamo un'altra cultura. Secondo me la Champions League di oggi è già un buon punto di compromesso, non è così distante dalla Superlega, tanto è vero che i club alla fine la accettano perché non sentono il bisogno di andare oltre. Il problema è che ammazzi i campionati nazionali, cioè questa Superlega che de facto esiste, perché la Juventus ne fa parte, il Bayern Monaco ne fa parte, le inglesi ne fanno parte quasi tutte perché sono tutte ricche, Barcellona, Real Madrid ne fanno parte. Questa Superlega di fatto esiste da un punto di vista economico e questo massacra i campionati nazionali. Questo è il vero problema. I campionati nazionali sono massacrati dal principio che però non c'è solo l'Italia, per cui più sei grande e più diventi grande e più guadagni. E più continui a guadagnare. Esatto. Che è il contrario di quello che succede in America col meccanismo del draft, dove addirittura c'è un meccanismo che ti riequilibra e per cui peggio sei andato e prima hai la possibilità di prenderti il miglior giovane. C'è anche da dire che lì hai spazio e tempo e programmazione, cioè viene accettata l'idea di 3, 4, 5 stagioni perdenti per costruire una squadra, cosa che qui non passerebbe mai, no Filippo Galli? Ma sì, ma poi io credo che se parliamo di Stati Uniti, io credo che comunque il livello medio generale dei club, delle squadre, qualsiasi sia lo sport, è alto e quindi sono strutture veramente comunque pronte a recepire un certo tipo di politica sportiva. Qui da noi credo che sia differente, quindi ci sono tante cose che andrebbero prima cambiate prima di arrivare a pensare in quella direzione. Non lo so, io sono temi di politica sportiva che andrebbero affrontati attorno a un tavolo e ci si dovrebbe spendere tanto tempo, quindi complicati, difficili da risolvere e anche da inquadrare in quattro parole. Grazie Filippo Galli, buon lavoro. Grazie a voi, ciao, fai bravo. Fai bravo, fai bene la diagonale. Forza, torniamo. Tutti convocati. Sono Enrico Ruggeri, questa settimana è una storia particolare, molti all'insegna della tenerezza, il falco e il gabbiano. La cagnolina Laika, il primo essere vivente scaraventato nello spazio per un volo senza ritorno. Il viaggio dalla Scozia ai mari del sud di uno dei più grandi scrittori degli ultimi 200 anni, Robert Louis Stevenson. Voliamo sulle ali di carta per raccontare dell'amore infelice di Cyrano de Bergerac. José Luis Chilavert, il portiere con il vizio del gol. E poi, assieme a Massimo Boldi, raccontiamo la storia triste del principe dei clown, Benny Hill. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 15.30 su Radio 24, Il Falco e il Gabbiano. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Bardo, ci ha raggiunti il professor Beninazzo dal piano di sopra. Eccomi, buon pomeriggio a tutti. Che è già molto in pieno clima Napoli-Juve. Ecco, che si parlava di Napoli-Juve, io prima mi sono lanciato in valutazioni economiche e lui è diviso, no? Perché lui ha un emisfero destro e un emisfero sinistro del cervello, una parte razionale e una parte irrazionale del tifoso del Napoli. Ti ringrazio innanzitutto. Che valutazione dà 8 mesi dopo di questa operazione, da tutti e due i punti di vista, quello affettivo e quello finanziario? Cioè, morale, non so se andrà a San Paolo. Ma San Paolo per la Juventus? Credo di no, ma se dovessi andarci a incontrare Higuain, no, assolutamente. Io tra l'altro ho avuto modo di incontrare Higuain in un evento, insomma, della Juventus, quando sì, è stato presentato il brand. Non racconterò nello specifico cosa mi ha detto, per così lo tengo per la privacy, però da tifoso del Napoli l'ho ringraziato sia per i tanti gol che ha fatto con il Napoli, sia per i 90 milioni. Quindi no, ritengo che sia stata un'operazione assolutamente proficua per le due parti, anche perché il Napoli, insomma, è riuscito a tenere dentro questo budget l'acquisto di tanti giocatori importanti e di prospettiva. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto vi ringrazio per l'opportunità. Ma grazie a lei. Ascoltandovi, diciamo, ero un po' di diversa opinione rispetto al discorso che la Superlega porterebbe e ammazzerebbe i campionati nazionali, ma non tanto per il calcio. È che mi sembra proprio che in Italia si vedono ormai, non diamo più neanche le potenziali, non vediamo le potenzialità che abbiamo. Cioè, il fatto di essere in ritardo con gli stadi, che ogni città abbia il suo stadio, che poi deve essere il terminale di una serie di attività. Ad esempio, per Cassi di Bergamo, ho fatto il conto che la provincia è di 1 milione di bergamaschi e il suo buccino di tenta è quello: a tutti i nati regala i gadget dell'Atalanta per creare una community. Cioè, si possono lo stesso creare degli spettacoli che riempiono stadi da 40.000 a 50.000, che dopo diventano degli spettacoli da vendere alla televisione, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. Adesso non so se sono riuscito. Ma lei ha ragione. Il problema è che l'Italia discute su tutto, perché è giusto discutere. Però questo è un paese dove tutto può essere bloccato da un ricorso, da un sindaco che cambia, anche in maniera legittima, perché tanto per fare l'esempio di Roma. Io non è che ho la certezza matematica che quello sia il miglior progetto possibile, non è che faccio l'urbanista, però dico che un progetto, Roma è un caso perfetto da questo punto di vista, perché un progetto che parte con una giunta, con la giunta numero uno, che prosegue e viene firmato dalla giunta numero due, poi viene messo in discussione dalla giunta numero tre e poi viene trovato l'accordo. Cioè, è tutto complicato, è tutto parzialmente complicato. Poi, per carità, io credo nella buona fede, quindi è ovvio, certo, che chi ha mosso delle critiche l'avrà fatto a ragion veduta, ci mancherebbe altro. Ma poi però alla fine è tutto difficile, Pier, qui. Mille parole, poi a Roma si gioca ancora all'Olimpico e si giocherà ancora all'Olimpico chissà per quanto, no, a Bergamo si gioca, credo che si farà. Spero anch'io. A Bergamo si gioca nello stadio Azzurri d'Italia, che è decrepito. A Napoli si gioca a San Paolo, che è decrepito, e questo capiterà. Però molto, anche molto si sta muovendo, e devo dire che al di là del caso Roma ci sono tante realtà che faticosamente, questo è il problema, questa fatica enorme, semplicemente, per avviare i progetti. Poi, per esempio, Bergamo, lo stadio è stato messo all'asta, sarà acquistato di fatto poi dalla famiglia Percassi, c'è un bel progetto per fare uno stadio moderno all'inglese da 25.000 posti, e io credo che i Percassi, che tanto hanno fatto in tanti settori dell'economia, ce la faranno a far quello. Però il problema è che non basta uno stadio o due stadi o tre stadi, ci vuole un insieme di stadi moderni che fanno poi l'appeal, il cosiddetto appeal della Serie A, che poi ti permette di andarla a vendere magari all'estero e di non prendere 180 milioni contro 1,5 miliardi della Premier, ma di arrivare almeno a 400 milioni. Ecco. Sì. Intanto c'è da risolvere un altro annoso problema, perché in Italia tutto è annoso e maledettamente difficile, quello della impasse della Lega Calcio. Ieri scherzavamo, no? Anche con Pardo, su sta storia del campionato che inizia il 13 agosto forse, o magari una settimana dopo, e deciderà la Lega, ma la Lega potrebbe essere commissariata da Tavecchio. Beretta è presidente uscente ormai da quanto tempo, Marco? No, Beretta è di fatto da alcuni mesi, insomma, che è sul... dimissionario, però era stato dimissionario, poi è stato riconfermato. Era un presidente, come dire, ad interim, infatti. È durato 9 anni, insomma. È durato 9 anni, appunto, come presidenza ad interim non è male. Ieri scherzavamo se Tavecchio commissaria la la Lega Calcio, entro, come promesso, il 18 di aprile discuterà con se stesso sulla... Magari potrebbe metterci lo Tito, non so. Potrebbe metterci lo Tito. No, allora, al di là delle battute, il problema fondamentale è che, per come adesso è la Lega, io lo ripeto spesso, puoi prendere anche il commissioner della NBA, lo metti lì, può fare... poco o nulla, quindi non è colpa temperare di Beretta, diciamo, o di altro. Temperare le matite. Può cercare di mettere insieme quanti più consensi possibili, ma se tu crei un modello in cui per qualsiasi decisione occorrono maggioranze iperqualificate o addirittura l'unanimità, capisci che dà il potere di veto a ogni persona, certo. E quindi crei una situazione condominiale, come ho sempre detto, in cui non si decide nulla. Allora, lì c'è un problema legato alla governance e mi pare che con la riunione di oggi si stia andando verso una soluzione per cui si vuole rendere la Lega più efficiente, quindi individuare una figura di amministratore delegato, un presidente più politico, ma appunto un amministratore delegato e altri dirigenti che possano fare le cose, che possano per esempio aprire uffici di rappresentanza, sì, della Lega, insomma fare quello che avviene in tutte le altre leghe europee, professionistiche o americane. Altra questione molto diversa, ma qui ci colleghiamo esattamente a quello che stavamo dicendo prima, è quello del cosiddetto articolo 19, cioè come distribuire o redistribuire i soldi delle TV. Il problema è che non si può uscire da un impasse laddove si vuole litigare per una torta che diventa sempre più piccola. Il punto sarebbe porre le condizioni per avere una torta sempre più grande. Certo. E allora lì il problema si risolve. Noi ci siamo ritrovati oggi in una situazione in cui, tra paracadute e tra modello di distribuzione di queste risorse, tu hai tantissime squadre che ormai arrivano in Serie A, investono un minimo, valutano a gennaio, se a gennaio non sono nelle condizioni di, come dire, combattere per rimanere in Serie A, piuttosto che rinforzarsi, vendono i giocatori, perché tanto 30 milioni li prendono dall'anno in cui sono in Serie A, sì. 15, 20, 10, insomma, in base all'anzianità in Serie A, arriva dal paracadute, mettono insieme un bottino di 45 milioni che, sì, rispetto a un fatturato che in Serie B, diciamo, nel migliore dei casi può arrivare a 3-4 milioni, capisci? Significa che sono a posto per 10 anni. E questo è un campionato paradigmatico. Questo è il campionato che dimostra che così le cose non vanno più. Certo, è campionato paradigma perché le retrocesse ci sono già da girone d'andata, le altre hanno potuto fare cassa, fare mercato, vendere i giocatori, spostarli, eccetera, eccetera, e quindi tutti in questo campionato hanno fatto il loro bottino, giusto? È così. Il secondo, diciamo, sono d'accordissimo, secondo me, ancora una volta abbiamo chiaramente centrato la questione. Il secondo aspetto è che chi va in Serie B, chi retrocede, a quel punto ha un vantaggio competitivo, certo, enorme sulle altre. Adesso la situazione del Verona è abbastanza paradossale, nel senso che il Verona chiaramente ha un budget superiore alle rivali, era in controllo della situazione, adesso è in rottura prolungata da 2-3 mesi e sta rischiando. Però, insomma, è abbastanza un'anomalia, no? Perché il Frosinone sta andando bene, il Carpi non così tanto, ma insomma, veramente c'è la possibilità, come già giustamente denunciato, di fare una programmazione quasi ex ante, in anticipo, a gennaio, vendi, porti i soldi a casa, paracadute, e l'anno dopo riparti più forte di prima. Allora, assolutamente. Questo è un problema. Io ritengo, guarda, che il paracadute, che è in premio, per esempio, è il triplo, perché hanno molti più soldi, anche lì viene messo in discussione. Perché può creare questo effetto, diciamo, di cortocircuito. Allora, o puoi scegliere un modello in alternativa come quello della Bundesliga, che fa un'unica trattativa per tutti i diritti TV, e poi il 20% li assegna automaticamente alle squadre della Serie B. Però, come sappiamo, non è possibile perché le leghe si sono separate. Certo. Io ritengo che, paradossalmente, nella nostra, voglio dire, incapacità di decidere, nel fare invece capacità di fare grande confusione, la proposta, per esempio, di creare un paracadute che sia in qualche modo ancorato ai punti, possa essere una soluzione intermedia, certo. Positiva, secondo me è abborracciata, perché vanno create diciamo soluzioni di sistema, non basta modificare una norma piuttosto che l'altra, perché certo poi tu parli di punteggio, insomma, poi crei una situazione in cui, se faccio più punti, voglio dire, guadagno più paracadute, alla fine magari gioco con squadre che non hanno nulla, cioè, puoi creare una maggiore competitività. No, ma tu dovresti fare una parte legata al al numero di punti delle singole squadre, non soltanto di quelle che retrocedono, non soltanto certo. quelle del paracadute, perché così facendo, per capirci, Pescara Udinese alla penultima giornata ha preso proprio due squadre a caso, certo. augurando al Pescara di salvarsi, che mi sembra difficile, e augurando all'Udinese di non rischiare, è comunque una partita dove l'Udinese sa che se vince comunque dei soldini rientrano in cassa piuttosto che se perde. Questo è un meccanismo, secondo me, importantissimo. Cioè, c'è bisogno di creare. Io farei un terzo. Sempre. Bisogna creare norme di sistema. Sì. Per esempio, si discute molto sulla parte fissa, no? Quella che va a tutte le parti in parti uguali. Solo in Italia c'è il 40%, ma in Premier, in Bundesliga abbiamo il 50%. Certo. Quindi in questa ottica è un elemento positivo. Però se tu vai a guardare gli altri criteri, in Inghilterra, in Germania, ma nella stessa Francia, sono molto più meritocratici, cioè spingono molto sui risultati delle ultime stagioni. Chiaro. Noi invece abbiamo un criterio meritocratico che ancora, per esempio, il 5% ha i risultati storici addirittura a partire dal 1946. Cioè, capisci che si creano poi distorsioni tali per cui voglio dire, se sediamoci intorno a un tavolo, individuiamo soluzioni di sistema che però devono andare. Marco, noi siamo bravi a sederci intorno a un tavolo solo per farci delle grandi magnate. Questo è il problema. Questo è un po' il problema. Ci fermiamo un attimo per il traffico, poi torniamo. Pardo, stai lì, perché poi parliamo anche di un interrogativo che ti riguarda da vicino. Dove vedremo il calcio in TV dal 2018 in poi? Convocati. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda in mani sicure. Gondrand.it vi presenta. Tutti convocati. Allora, Beninazzo, mentre io invito i nostri ascoltatori su tutti i temi che vogliono, 800 24 00 24, dalla nazionale dei giovani e dalle speranze che ci dà, e sono, ripeto, d'accordo con Ventura, se andiamo ai mondiali, e tolgo se andiamo ai mondiali e giochiamo ruolo di sorpresa per tutti quanti, fino ad arrivare a Messi, di cui parleremo dopo con Paolo Condò, dell'Argentina, dell'Olanda in crisi, di tutti questi belli argomenti, però... Di un po' a Pardo, dove vedremo il calcio in TV nel 2018. La notizia di oggi. Dacci la luce. La notizia di oggi è questa: Telecom che entra in gioco. Beh, com'è la storia? Ci arriviamo come al solito con 10 anni di ritardo, no? Rispetto a quello che è l'evoluzione del mercato. Allora, il calcio è diventato. Come ho raccontato in Goal Economy, che è uscito insomma 2 anni fa, nel 2015, era già un luogo della sperimentazione delle tecnologie, e i primi ad arrivarci a capirlo sono stati gli inglesi, perché British Telecom è stata la prima a contendere a Sky in Inghilterra i diritti TV del calcio, perché saturo il mercato mobile, quello classico, ormai siamo sommersi dalle offerte dei telefonini, si è capito che per sfruttare la banda larga, per fare i nuovi contratti, bisognava riempire di contenuti quelle reti di trasmissioni. E quali migliori contenuti se non quelli del calcio? British Telecom ha iniziato a combattere con Sky su vari fronti, in particolare ha perso sulla Premier, perché ha un piccolo pacchetto, ma ha battuto, e l'ha ribattuto peraltro poche settimane fa, per quanto riguarda i diritti della Champions. Ha creato dei canali TV dedicati allo sport, che chiaramente non vanno su un tradizionale device della TV, no? Ma utilizzano tutti i moderni strumenti di comunicazione che oggi abbiamo, l'iPhone classico, l'iPad, quello che volete, quello che ci sarà tra 3 anni, non so, bisognerebbe chiederlo a Cupertino, insomma, quello che ci sarà. Ma in ogni caso il concetto è questo: reti di trasmissione che non fanno più soltanto le classiche telecomunicazioni o semplicemente da ponte di contenuti altrui, ma si appropriano di contenuti e con questi contenuti modificano i modelli di business. Sì, potrebbe esserci anche alleanza, no? Però tra telecom assolutamente. E televisive. Ho fatto l'esempio dell'Inghilterra, la stessa cosa è accaduta in Germania. Noi avevamo un problema della banda larga poco sviluppata, ma è anche vero che ci sono tantissimi progetti di sviluppo della banda larga in Italia. E arrivo alla tua domanda: dove vedremo il calcio nei prossimi anni, perché sia per quanto riguarda la Serie A che la Champions ora devono andare in gara i diritti per il triennio 2018-21. Sì. Peraltro, per esempio, la Champions è stata appena indetto anche l'asta per quanto riguarda la Francia, la Germania, da noi è stata rinviata, così come quella per la Serie A, perché appunto la nostra situazione è molto delicata. Apparentemente, cioè a bocce ferme, ci sarebbe un solo operatore. Sì. Sky. Sì. Mediaset ha fatto un passo indietro, ha problemi con Vivendi, lo sappiamo, sì, c'è la battaglia legale. Però allo stesso tempo Mediaset ha detto cosa? Ha detto: noi non ci siamo, parteciperemo, non ci sveneremo più, potremo essere una piattaforma su cui altri che magari acquistano i diritti potranno appoggiarsi. E quindi ecco che si aprono scenari per cui, oltre ai classici broadcaster, quindi Sky, Mediaset o per dire Discovery, ricordiamo per esempio Discovery, uh-huh, che è entrato fortemente nel mercato dei diritti sportivi, ha le Olimpiadi, ha il rugby, ha un canale diciamo sempre più dedicato allo sport, ha Aerosport dentro di sé, Liberty Media proprietaria è quella che ha comprato la Formula 1, uh-huh, ed è John Maloney proprietario, grande nemico di Murdoch. E quindi abbiamo questo scenario per cui ci potrebbe essere Sky, quindi Discovery, piuttosto che Mediaset alleata con Telecom, e addirittura potrebbero entrare in campo i grandi social, Facebook, certo, che certo, fa sempre certo, più dirette, che certo, in America certo, sta utilizzando gli sport. Quindi io non so se Pardo andrà su Facebook, no, ma guarda, o dove, guarda, ma potrebbe esserci molto molto interesse, ecco. La verità è che pensate alle nostre vite come sono cambiate. Quante volte noi oggi vediamo un video in un luogo dove 10 anni fa non l'avremmo visto semplicemente perché quel luogo non c'era, perché magari è un tablet oppure è un telefonino. Ormai siamo in una realtà dove il contenuto e il contenitore non sono più strettamente legati. Detto questo, poi ci sono anche dei numeri, per esempio, sulla forza e la tenuta della TV generalista che sono molto interessanti. Cioè, evidentemente poi comunque le case rimangono dei luoghi, i televisori belli di ultima generazione, è bello averli, e c'è una ritualità, però che ormai da tempo, e pensare adesso il prossimo bando è 2018-2021, quindi parliamo di un tempo anche relativamente lungo, soprattutto nell'ultima parte del bando, è veramente una società nella quale la partita te la proietti, probabilmente la vedremo sulle camicie, non lo so, con un chip ce la vedremo non lo so, metteremo un paio di occhiali e lì vedremo la partita. No. Allora, ragazzi, abbiamo un minuto per dirci due cose sulla telenovela dell'anno. Credo che sia la telenovela del secolo, del veramente secolo. Arrivati addirittura ad avere una situazione per cui il Milan finisce o potrebbe finire nelle mani di chi ha provocato tra le altre cose il default dell'Argentina, insomma è americano, cioè è il massimo, cioè dalla Cina agli Stati Uniti. Diciamo che Leo Yong è uno a cui non manca la fantasia, questo l'ha dimostrato, vediamo se avrà le risorse. Il problema vero è appunto dopo il closing quello che accadrà al Milan, e se Leo Yong riuscirà a riattivare canali politici con Pechino, che in questo momento sono venuti meno, e che chiaramente l'alleanza anche con Elliott mette ancora più in pericolo. Diciamo che sono stati racchettati i soldi per accontentare Berlusconi, e poi tutto il resto rimane avvolto in una nebbia molto fitta. Che possa ripagare in 18 mesi 300 milioni, uno che ha avuto difficoltà a trovarne 100, insomma, diventa un po' difficile anche da immaginare. Però seguiranno altre puntate, vi racconteremo, sì, quello che accadrà. Non seguiranno delle rapine in banca, io mi auguro. Allora, io ringrazio Pierluigi Pardo, ci troviamo domani, ci sentiamo domani su questi schermi. Marco Bellinazzo, ci sentiamo presto su questi schermi. Torniamo subito dopo il GR con un giro del mondo con Paolo Condò. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Oscar, mi aiuti? Eccomi! No, stai attento, prendila di lì! Ma cosa? È scivolosa! Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive. E schiene dritte. Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8:20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura. Semmai ne f***a. esistere, vuoi stare seduto in panchina a guardare? O vuoi entrare in campo? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo, tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Dentro, bellissimo per James, in mezzo aspetta il pallone Cuadrado, James lo cerca, Cuadrado! Juan Guillermo Cuadrado, dopo 34 minuti, segna il 2-0. Carrillo salta secco l'avversario, parte il cross, Guerrero la mette giù in area di rigore, Flores! La ribalta al Perù, minuto 62. Neymar, che giocata, ne salta due, scappa via a sinistra, accelera Neymar, controllo palla al piede, punta da Silva, Neymar la piazza con deviazione. Alexis Sanchez, altra conoscenza del calcio italiano, parte la parabola e pallone in rete, 4 minuti, 3 secondi, il vantaggio del Cile. Flores riprende il pallone, Flores dentro c'è Martins, Flores prova a crossare, ci riesce, Martins controlla, Martins! Bolivia 2, Argentina 0. Cala il sipario e per l'Argentina è un fracasso totale, perde 2-0 contro la Bolivia. E adesso sono cavoli amari per l'Argentina priva di Messi. E il vostro posto, come dicevamo prima di iniziare, è in questo momento alle 14:15:30 nei pressi di una radio e magari di un telefono per chiamare. 800 24 00 24, il numero verde. Rapido giro per il mondo, intorno al mondo, guida il professor Paolo Condò. Buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao a tutti, eccomi qui. Giro allora. Per, ma molto divertito la notizia di, che abbiamo sentito prima nel GR, Bob Dylan. Sono a Stoccolma da quelle parti a fare un paio di concerti, vengo a ritirare il mio Nobel, va. Non è stato male. Senti Paolino, io partire, che faccio? Sono lì a suonare, ma sì, va, vengo a prendere il mio Nobel. Ciao, va. Senti, io partirei al giro del mondo dall'Italia, l'Italia di Ventura, perché io sono d'accordo con Ventura, non so tu, andando in Russia potremmo diventare davvero la sorpresa, una nazionale che a me intriga tantissimo. Sì, anche a me, è chiaro che la prospettiva di questa nazionale probabilmente è più sul prossimo europeo e il mondiale seguente che non su questo, ma secondo me delle soddisfazioni ce le possiamo togliere già in questo. Smetterei di dire se andiamo in Russia perché... In Russia perché si va. Io capisco che sia un esorcismo, si tratta essenzialmente di un esorcismo, ma se non andassimo in Russia dovremmo parlare di più grande flop della nostra storia, più o meno pari a quello del 58 quando non andammo in Svezia, è l'unica altra volta nella quale non ci siamo qualificati. Quindi certo, penso anch'io che dovremmo passare per lo spareggio, però francamente non vedo squadre che lo spareggio possano valere più di noi, ecco. No, detto che devono ancora stabilire le regole, e secondo me che cosa faranno? Faranno le quattro teste di serie per ranking FIFA, e quindi eviteremo il Portogallo, che in questo momento mi sembra la più pericolosa delle altre squadre, certo, che rischiano di non arrivare prima. No, ma io sono abbastanza integralista come Cruciani, cioè si dovrebbe andare ai mondiali, le storiche grandi nazionali dovrebbero andare ai mondiali senza passare attraverso qualificazioni che sono in parte ridicole e in parte molto, molto difficili. No, è un discorso sensato, però se poi alla fine queste nazionali giocano una volta ogni due anni soltanto il torneo, perché alla fine, cioè, io non credo nelle amichevoli. No, ecco, io neanche. Ecco, e quindi alla fine questi qui avrebbero praticamente un mese di lavoro precedente, un mese, due settimane di lavoro precedente, e poi il grande torneo vedremmo, se già tradizionalmente con le nazionali si vede uno spettacolo direi tecnicamente inferiore, esatto, a quello dei club, esatto, così la forbice aumenterebbe ulteriormente. Non, ecco, c'è dubbio. Ho dei dubbi. Senti, è sensato, ma ho dei dubbi. Dimmi. Senti, Brasile Paraguay 3-0 e il Brasile è la prima squadra qualificata matematicamente per la Russia, per i mondiali. Sì. Quindi resurrection del Brasile. Bolivia batte Argentina 2-0 nonostante il Viagra, tra poco vi dico perché. Cile batte Venezuela 3-1, la Colombia vince 2-0 in Ecuador, e per ora rimonta l'Uruguay 2-1, Brasile 33, Colombia 24, Uruguay e Cile 23, Argentina messa malissimo 22, Ecuador 20. Viagra perché giocando appunto in 3700 metri di altitudine della Bolivia, ai giocatori dell'Argentina hanno somministrato a quanto pare questo farmaco. Non è servito un granché, nemmeno allora, per risollevare le sorti degli albi celeste. Allora, intanto ti darò una notizia. Stai parlando, io non so quanti siano i giornalisti italiani che sono stati allo stadio Hernando Siles di La Paz, stai parlando con uno di quelli. Sì. Ho visto nel 93 una qualificazione mondiale Bolivia-Uruguay, sì, a quello stadio che al 75esimo era 0-0 e finì 3-1 nell'ultimo quarto d'ora, 3-0 poi Francescoli al 90esimo su punizione segnò il gol della bandiera. Quindi ricordo alla Paz proprio, io ci arrivai 2 giorni prima, ricordo la passeggiata, io così non curante, avevo 25 anni di meno rispetto a oggi, non curante, faccio una bella passeggiata nel centro della città e dopo 200 metri mi devo sedere su una panchina perché avevo le formiche nelle gambe. Certo. Quindi voglio dire, ho la massima comprensione per chi va a giocare in quello stadio, soltanto fare le scale di quello stadio, ero anche più magro di adesso, ma costò un fiatone, niente male. Detto questo, voglio dire, Maradona ci aveva perso 6-1 sì, in Bolivia, sì, sì. Il risultato non mi ha, ho guardato la partita è stata l'attesa di un'esecuzione, sì. Non è stata una partita. E d'altra parte, se tu giochi con tutto rispetto, con Prato Correa davanti, con i signori Prato Correa e Agüero in panchina, Dybala almeno per uno spezzone che poteva giocare probabilmente in panchina e Icardi a casa, sì. E insomma, chi ha causa del suo mal pianga se stesso. È normale che il CT venga messo minimamente in discussione. Ma guarda, poi i poveri argentini che in questi anni hanno dilapidato un capitale giocatori straordinario, soprattutto in attacco e a centrocampo, difesa un po' meno, però hanno dilapidato la famosa generazione dei perdenti, no? Che hanno fatto diverse finali ma le hanno perse tutte. Se loro avessero avuto un allenatore vero, un allenatore europeo di quelli che vadano un po' magari, di più magari sodo, si fa in tempo perché Bausa è lì insomma, però sì. Abbiamo anche una federazione argentina che se non sbaglio non ha presidente da 2 anni, dovrebbe essere dopo la morte di Grondona lì sono tutti contro tutti, sì, faide interne, sì, ecco. La cosa che volevo dire a proposito, che tu sicuramente ti chiederai sulla squalifica di Messi, sì. È allora io vado contro la tesi complottista, nel senso, in quale sport tu organizzi la rassegna mondiale e fai in modo che il miglior esponente di quello sport non vi partecipi? Nessuno potrebbe essere così pazzo. E torniamo al discorso di qui sopra, no? Tra l'altro con Messi media punti 1,9, 55,3% di vittorie, 38 giocate, 21 vinte. Senza Messi media 1 punto, 20% di vittorie, 10 giocate, 2 vinte. Tanto per spiegare che fa una minima differenza. È sempre rimasto molto distante dai livelli visti nel Barcellona. Sì. Ormai possiamo anche dare, voglio dire, io siccome io adoro Messi, io spero onestamente, se non dovesse vincere l'Italia, ovviamente ti farò sempre per l'Italia, prossimo mondiale, ma spererei che lo vincesse l'Argentina se non dovesse vincere l'Italia, perché mi sembrerebbe un'assurdità che Messi chiudesse la sua carriera senza aver vinto un titolo mondiale. Però è chiaro, insieme a Messi ci metto questa generazione di fenomeni che rischiano uno dei più grandi flop della storia, dai. Sì, secondo me devono cambiare. Vuol dire, Icardi e Dybala sono 2 giocatori che non possono mancare nella nazionale argentina dell'anno prossimo, insomma, ma non possono Icardi e Dybala a Messi e poi ragioniamo. Sì, ecco. e poi gli altri otto li decidiamo. Lo dico naturalmente con la massima stima per Higuain, che io considero uno dei 3 centravanti migliori del mondo con Lewandowski e Suarez, lo dico sempre, però ha avuto talmente tante occasioni Higuain senza riuscire a quagliare, che adesso secondo me è il momento di vedere Dybala e Icardi accanto a me. Sono curioso di chiederti invece una cosa. Brasile sembrava allo sbando, sembrava in totale ricambio generazionale, la prima squadra qualificata ai mondiali. E allora, c'è un Neymar, Neymar che insidia il trono dei re. Allora, il titolo del Brasile, scusate il ritardo, perché loro avrebbero voluto avere questa nazionale 3 anni fa, sì. Mondiale casalingo. Naturalmente, per sfiga è andata a maturazione questa generazione, due anni dopo hanno vinto le Olimpiadi, che per loro erano un tabù, e adesso quando tu dici primo Brasile lo dici nelle qualificazioni, ma probabilmente primo Brasile anche come valore assoluto. E anche il momento nel quale Neymar sta per porre, ha già posto la sua candidatura forte a succedere ai due mostri, perché secondo me Neymar ormai è molto vicino, molto a quel vicino, livello, molto vicino. È chiaro che vediamo, io onestamente non so quanto tempo ancora potranno giocare nello stesso club i due. Io credo molto poco, tanto che non lo so, mi sento che sarà un'estate particolarmente esaltante, scoppiettante, per i signori provocatori. È chiaro che sono due, proprio due giocatori franchigia, no? Come si certo, dice? Certo, evidente. Due giocatori franchigia, e devono essere i leader di due squadre contrapposte. E se ti posso dire, io non metterei, non so, i 2 euro che mi sono rimasti per vedere Messi in un'altra squadra, da un'altra parte, sì, per molte ragioni. Anche a me piacerebbe. Per molte ragioni. Devo dire, una volta romanticamente ti avrei detto di no, adesso vorrei vedere Neymar continuare a essere il leader del Barcellona vedere, e Messi da un'altra vorrei parte. Vedere Messi da un'altra parte, sì. Poi, senti, naturalmente il sogno sarebbe vederlo in Italia, però non pretendo tanto, va bene anche in Inghilterra, no, in Italia, ma lo vorrei vedere da qualche altra parte. Senti, invece tornando all'amichevole di ieri sera tinta di azzurro, dall'altra parte c'era un arancione sbiadito, un'altra delle grandi squadre storiche che sta vivendo un momento anche più difficile ovviamente di quello dell'Argentina è l'Olanda, senza un commissario tecnico, sull'orlo dell'abisso per quanto riguarda le qualificazioni mondiali dopo aver fallito gli europei, e anche con una generazione di giocatori che non mi sembra sia all'altezza delle edizioni precedenti, diciamo. Vecchi se ne stanno andando, Van Persie se ne è già andato, Robben e Snyder sono probabilmente alla frutta, e i nuovi no, assolutamente non. I nuovi sono molto deludenti, perché ti devo dire, qualche anno fa avevo visto Depay, avevo visto ecco, Depay continua a essere un grande dribbler, ogni tanto fa i suoi slalom, ne salta 4 o 5, ma concretezza zero, tanto che il Manchester United l'ha spedito al Lione adesso. Sì. A me piaceva molto Maher, che è finito allo Smanlispor, quindi immagino che se è finito lì non esattamente ai vertici del calcio, gli sviluppi della sua carriera non abbiano mantenuto le promesse. Insomma, questi giovani, se tu vai a vedere, poi il più forte dell'Ajax è danese, Dolberg, sì. Adesso quindi sì, insomma è un momento così. Dopodiché sai, il calcio olandese è come il vivaio dell'Atalanta, certo. Magari per 3-4 anni non produce nulla, e poi improvvisamente esce una squadra che resti a bocca aperta e dici, madonna mia, che forti che sono questi tutti insieme. Quindi però probabilmente adesso pagherà pegno e non parteciperà al prossimo mondiale. Sì, ma adesso chi servirebbe come, vabbè, traghetta, come CT dell'Olanda? Un carismatico come Gullit che si è proposto, o un allenatore vero, per quanto possa contare un commissario tecnico dal punto di vista della costruzione di una squadra, cioè pochissimo? No, beh, sicuramente Van Gaal non lo discuti, Van Gaal ha già fatto molto bene, è probabilmente un sergente di ferro con idee tattiche molto precise, come lui può essere buono per far crescere dei ragazzi. Segnalo che in tutti i discorsi di questi giorni, che ho visto tantissime candidature per guidare l'Olanda, non è mai venuto fuori il nome di Frank Rijkaard. Ma Rijkaard dov'è finito? Esatto, abbiamo perso le tracce di Francolino. Poco di Frank, persona a cui io voglio molto bene. Frank fece una discreta nazionale olandese nel 2000, che era praticamente il suo primo lavoro, e finì poveraccio, si prese la musata contro quell'incredibile partita dell'Italia, quella dove sbagliavano rigori uno dietro l'altro, sì. Quella è una delle partite più incredibili alle quali abbia mai assistito, meglio per noi che bello l'avevamo vinta, ma onestamente la povera Olanda si sentì defraudata non del tutto a torto. E poi ha fatto quello che ha fatto a Barcellona, tra l'altro lui è quello che ha lanciato Messi, cioè l'ha fatto crescere all'ombra di Ronaldinho e poi al momento giusto l'ha lanciato, quindi sa lanciare i giovani. Lui aveva avuto dei problemi familiari poi, aveva avuto dei problemi familiari e quindi aveva, insomma, perso qualche giro, però io penso, non ho notizie fresche di lui, però dopo aveva fatto Turchia, poi Stati Uniti, sì. E poi era un po' sparito, non so se era andato da qualche altra parte, però non nel grande calcio. Io vorrei, avendo una grande considerazione per la persona che ho avuto modo di conoscere sia al Milan che da giocatore che poi al Barcellona da allenatore, una persona splendida, Frank Rijkaard, ecco, mi piacerebbe che gli venisse data un'altra chance. Quantomeno è uno che ha dimostrato di saper fare l'allenatore, almeno a Barcellona. Sì, sì, assolutamente non, sì. Su questo non ci sono molti dubbi. Sì, sì. Grazie Paolo. Ciao Carlo. Buon lavoro, ti seguo su Sky. Buona giornata, grazie. Ciao Paolo Condò. Ciao. Ascoltatori, 80024, 0024 numero verde, Sergio da Firenze, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Io volevo parlare con della partita dell'Argentina, essendo Italo argentino. Sì. Sinceramente, inguardabile. Inguardabile, non c'è gioco, sì. Non c'è niente. No, ma ha ragione Paolo, quando è stata un'esecuzione. Esatto, esatto. Però parliamoci chiaro. Quante volte siamo andati a giocare lì, anche nei tempi passati, quante volte l'Argentina ha vinto e diceva 6-1, 7-0, 5-1, e come avete detto bene prima, Icardi a casa. Io vorrei mettere anche, adesso che io tifo la Roma, vorrei mettere anche il grande difensore argentino della Roma, sì. Che sta facendo un bel campionato, Fazio. Sì. Perché non sono stati chiamati? Perché non chiama il centrocampista della Roma? Ma al di là della Roma e degli interessi di partito, l'Argentina insomma ha dei giocatori dalla metà campo in su che sono mostruosi, no? Ma certo, ma certo. Non, è una cosa non incredibile. Si possono discutere. Ha ragione Paolo Condò quando dice mettiamo Icardi, mettiamo Messi, mettiamo Agüero. Certo, e poi Dybala, e poi Agüero, Dybala, e poi gli altri sette li tiriamo a sorte, grosso modo, e vediamo il modo di farli coesistere, di farli giocare insieme. Insomma, questa generazione di fuoriclasse argentini rischia di rimanere senza titoli, come direbbe Mourinho, ed è un falso storico assoluto. Sergio, la ringrazio, ma continuiamo a fare il tifo, almeno io e Gianmarco Ferronato, per la camisetta albicereste, per vari motivi. Intanto continuiamo anche a fare il tifo per Roger Federer e per il nostro Fabio Fognini, che sta giocando il suo miglior tennis negli ultimi mesi e che al Master 1000 di Miami ha passato il turno avvicinandosi alla parte di tabellone più interessante. Ciao Paolo Bertolucci. Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, grande, no, Fognini? Poi sì. Capita che si inchiodi da qualche parte nella sua testa. Ogni tanto inciampa da solo, però sembra che questa volta finalmente ha avuto un buon tabellone, però è stato bravo, ha superato quattro giocatori alla sua portata, però soprattutto esprimendo un tennis di buon livello. Insomma, d'altronde nessuno emoziona, allo stesso tempo preoccupa i tifosi come lui. Sì. Sì. Adesso Nishikori non facile, numero 4 al mondo. No, non facile, numero 4, ma che però sta giocando male. Non è sicuramente in forma. Questo non vuol dire certo che Fabio entra in campo da favorito, ma io, insomma, quello che ho visto in questi giorni è una versione sicuramente extralusso del giocatore italiano che se riuscirà a ripetere le prove dei giorni scorsi, secondo me se la può anche giocare, sempre che Nishikori sia quello delle ultime tre uscite. Se poi riprova d'incanto il suo valore da numero 4 del mondo, allora è un altro discorso. Sì, sì. Però se è quello delle ultime tre uscite, Roger Federer, se è quello delle ultime tre uscite, Roger Federer è il candidato numero 1 a portarsi a casa questo Master 1000. Sì, insomma, se quello che abbiamo visto è qualcosa di che va al di là, insomma, non si riesce a dare una spiegazione come un giocatore a 36 anni, dopo 6 mesi di inattività, praticamente riesca a sfoderare un nuovo tipo di tennis, una nuova tattica, e praticamente ad essere più incisivo rispetto a 6, 7, 8 anni prima. Cioè, una cosa che non si capisce, basta leggere comunque le dichiarazioni, ho sentito le dichiarazioni di Del Potro, che ha detto: beh, io era un po' che non lo affrontavo e devo dire che gioca meglio di prima. Cioè, sì. Cosa vuoi dire? Sì, cosa vuoi dire? Voglio dire che avanza anche Nadal, voglio dire che Djokovic si è perso nei suoi meandri e Murray è infortunato. Io non vedo l'ora di assistere alla battaglia campale del prossimo di Parigi, insomma. Sì, beh, Parigi sì, quello sulla terra ci sono altre condizioni, però sempre anche qua Nadal, che era partito molto bene in Australia, sinceramente qua sta giocando molto molto male, oltretutto su una superficie, ma soprattutto su un campo che è sicuramente più lento rispetto a sia Indian Wells che a Melbourne, e quindi dovrebbe essere a lui più congeniale, invece qui sta giocando peggio, vedremo. Grazie Paolo, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi. Ciao Paolo Bertolucci. E con lui chiudiamo questa puntata di Tutti Convocati. L'appuntamento naturalmente è domani alle 14. Mi raccomando, sempre la radio a portata di mano, sintonia Radio 24, un telefono per l'800240024, così ci fate compagnia, ci fate felici. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Ciao a tutti. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti!